falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi dobbiamo ringraziare Alessandro Carli da Cesena, che ci ha chiesto di parlare di una delle figure più interessanti del mondo della musica, ma che è una figura di un artista che è morto molto presto, troppo presto. Facciamoci dire da lui chi è. Buongiorno Alessandro. Ciao Enrico. Tu ci hai consigliato un personaggio e abbiamo aderito immediatamente alla tua richiesta, intanto perché mi piace molto e perché è un personaggio molto significativo di quel periodo. Tu hai scelto Ian Curtis, cantante dei Joy Division. Cosa ti affascinava di Ian Curtis? Premetto che non l'ho vissuto nell'immediato momento in cui i Joy Division hanno fatto i dischi. L'ho acquisito dopo con ricerca personale. Diciamo che l'ho comprato il primo disco dei Joy Division nell'83, lo ricordo bene perché era un pacchetto di dischi che mi regalai dopo la maturità. E il suono più che altro mi incuriosì della formazione, e poi anche questa voce profonda, lontana, spettrale. Certo. A parte Love Will Tear Us Apart, qual è la tua canzone dei Joy Division? The Eternal. Bene. Sì. Grazie Alessandro, spero la trasmissione ti piacerà. È stato un piacere Enrico. Ciao. Ti ascolto tutti i giorni per radio. Grazie, ciao Alessandro. Ciao. Ian Curtis, o forse dovrei dire Ian Curtis, ma dico Ian Curtis perché così lo pronunciamo tutti. È una figura completamente a sé stante nel panorama della musica mondiale, leader dei Joy Division, una band veramente diversa dal gruppo, dalla massa, e anche perché Ian Curtis si è suicidato a soli 23 anni, ha rappresentato il suo disagio con la morte e ha rappresentato il male di vivere dei ragazzi. Ma la nostra storia inizia con un altro concerto, non ancora dei Joy Division, il glorioso concerto che i Sex Pistols tengono a Manchester il 4 giugno del 1976. Sono appena nati i Sex Pistols, eppure stanno già cambiando il mondo. Come dice Steve Jones, il chitarrista, non ci interessava la musica, ci interessava il caos. E in quegli anni di ribellione contro l'establishment, i Sex Pistols sono la punta di diamante di questa nuova guerra. Johnny Rotten è il loro portavoce. Essere punk vuol dire essere un fottuto figlio di puttana, uno che ha fatto del marciapiede il suo regno, un figlio maledetto di una patria giubilata dalla vergogna della monarchia senza avvenire e con la voglia di rompere il muso al suo caritatevole prossimo. Quando i ragazzi di Manchester si trovano al concerto dei Sex Pistols è come se un pilone dell'alta tensione si fosse abbattuto nella sala. È una scossa elettrica di potenza incredibile che scuote le coscienze di ognuno di loro. In quella sera, in quella sala, ci sono delle persone tipo Morrissey, che fonderà gli Smiths, c'è Howard Devoto, che formerà i Buzz Cox, Mark Smith, che crea i The Fall, e due ragazzi che quella stessa notte si inventarono i Joy Division. Quella sera c'è chi farà la musica dei prossimi 10 anni. A tutti loro quella serata e le canzoni dei Sex Pistols comunicano molto più che semplici note e parole. In quella sera i Sex Pistols stanno dicendo che la musica è il modo migliore per potersi ribellare contro una città e una vita che non offre nessuna via di scampo. I can remember very precisely what Manchester was like in the mid-70s. Ricordo molto bene come era Manchester nella metà degli anni 70, come se fosse un pezzo di storia passata rispuntata fuori nel bel mezzo del mondo moderno. Noi che nel passato avevamo inventato la rivoluzione industriale, ne abbiamo perpetrato le condizioni di vita. E Manchester era veramente una città da suicidio, una città vecchia e sporca. Dirty old town. questo era Tony Wilson, che in seguito diventerà produttore dei Joy Division, uno che Manchester in quegli anni la conosceva molto bene, una città che oggi è una delle più importanti visitate in Inghilterra, con due grandi squadre, due grandi stadi. Però allora Manchester era una città in disarmo, brutta, disperata, colpita da una terribile crisi economica, con una decadenza accelerata forse dalle durissime politiche liberiste thatcheriane. Beh, è una città nella quale non ci sono grandi speranze per i ragazzi figli della classe operaia, ragazzi come Bernard Sumner dei Joy Division o come il nostro Ian Curtis. A livello inconscio credo che tutti fossimo in cerca di qualcosa, perché vivevamo in un posto talmente brutto. Cioè, non credo di aver visto un albero fino a 9 anni. Manchester, case squallide, sporche, qualche calcio a un pallone in tristi cortili di cemento e ragazzi lasciati a loro stessi. Per questo quando questi ragazzi vanno a vedere il concerto dei Sex Pistols sentono come se per loro si stia accendendo una speranza, quantomeno una rabbia che sta per esplodere. Fu quella notte che formammo la band e fondammo il gruppo. Ma è facile formare un gruppo, è tutto il resto che è difficile. Poi andammo al secondo concerto dei Sex Pistols, dove incontrammo i Buttocks che gli facevano da band di supporto. Il 20 luglio i Sex Pistols tornano a Manchester e intanto Bernard Sumner e Peter Rook fanno quello che facevamo tutti in quegli anni, andarsi a comprare una chitarra o un basso di seconda mano. Ma quella sera al concerto non ci sono solo loro, c'è anche un ragazzo magro, solitario, con grandi occhi azzurri e una camicia fuori dai pantaloni stretti. Il suo sguardo è fisso su Johnny Rotten e i suoi compagni mentre balla muovendo le braccia in modo scomposto. Viene da un paesino vicino a Manchester, ha solo 20 anni, ha già un passato da poeta e ha scritto nel suo destino un futuro da custode nel paradiso delle rockstar. Il suo nome è Ian Curtis. Ascoltatore e amico Alessandro Carli ci ha dato la possibilità di parlare di Ian Curtis dei Joy Division, una band che in soli 2 anni di attività ha sovvertito molte regole musicali esistenti. E siamo rimasti a quel concerto dei Sex Pistols di Manchester, concerto al quale hanno assistito molti dei rampoli della Nouvelle Vague, del punk, della new wave inglese. C'erano gli Smiths, i Buzzcocks e c'era Ian Curtis. È un momento di grande svolta. I ragazzi di Manchester però in quel momento non hanno ancora capito, ma Ian Curtis sì, è più di un poeta, ha una sensibilità forse meno politica di gente come i Clash, però è molto profondo. Tony Wilson, che è quello che lancia poi i Joy Division, che produce i loro primi 2 album, spiega bene questa incapacità del punk di esprimere quel tipo di emozioni profonde. Punk enable you to say fuck you. Il punk rendeva possibile dire fottiti, ma in qualche modo non riusciva ad andare oltre quest'unica parola velenosa, a quelle 2 o 3 sillabe che esprimevano rabbia e furono necessarie per evolversi dal rock and roll. Ma presto o tardi qualcuno non avrebbe più voluto dire solo fottiti, ma anche sono fottuto. Furono i Joy Division, la prima banda in grado di farlo. Quelli che ebbero l'energia e la semplicità per esprimere emozioni più complesse. Ian Curtis sarà l'anima del post-punk inglese. La necessità di dare voce a sentimenti profondi che superassero il disagio iniziale. Eppure la sua all'inizio non è stata un'infanzia disperata o infelice. Dunque, intanto lui non nasce proprio a Manchester, ma a Macclesfield. È un paesino che ha solo la squadra di calcio che gira tra la terza e la quarta divisione. Ha una dignità un po' meno triste della grande città vicina, almeno in quegli anni. Un'infanzia tranquilla, attitudini artistiche, gli piace studiare. Insomma, in qualche modo è il ragazzino timido ma produttivo, come ce ne sono tanti. Ama la musica e, pur di sentire dischi, va a rubarne qualcuno in un negozio del centro a Macclesfield. Da ragazzo trova lavoro presso una struttura per disabili, insomma si mette a provare i farmaci dei suoi assistiti, fino a doversi sottoporre a una bella lavanda gastrica. Nel paese sanno tutti chi è, perché è un poeta, perché gira con una giacca con sulla schiena scritta la parola hate, odio, insomma è l'eccentrico del villaggio. La sua vita sembra avere una svolta quando nel 75 sposa una sua compagna di scuola, Deborah Woodruff. Ci sposammo che io avevo 18 anni e lui 19. Facevamo una vita molto normale. Iniziava controllando il mutuo da pagare, che ci fosse cibo in casa, cose così. E una volta che era tutto sistemato, lui usciva e iniziava a fare quello che gli piaceva veramente. Insomma, la classica brava ragazza di paese, magari un filo opaca, però forse è quello che Ian cerca, è quello che lui può permettersi. Credo che il fatto che io non fossi una brillante fosse la cosa che l'attirava. Forse credeva che sarebbe stato più facile modellarmi, controllarmi. Gli piaceva dire la sua su tutto quello che leggevo e sulla musica che ascoltavo. Beh, il quadro che Deborah fa del marito non è lusinghiero. Ian la ossessiona con la sua insicurezza, con la sua gelosia. La moglie non può uscire, non può indossare gonne corte, non può andare in giro nei suoi confronti. Ian ha un atteggiamento ossessivo che mal si adatta alla sua immagine un po' svagata da poeta. Mi diceva: lascia la scuola, non hai bisogno di dare gli esami, non hai bisogno di un lavoro. Ho intenzione di fare tantissimi soldi, così potremo stare insieme. Basta che lasci la scuola e poi possiamo sposarci e farci la nostra vita. Stood by the gate at the foot of the garden. Watching them pass like clouds in the sky. Try to cry out. Ma la vita coniugale non esaurisce certo i sogni di Ian. Siamo nei giorni dell'estate del 76. Come vi dicevo, Bernard Sumner e Peter Hook hanno deciso di fondare la loro band. Cercano un cantante. Per farlo adottano il metodo più tradizionale, mettono un annuncio in un negozio di dischi. Ian risponde subito. Mettemmo un annuncio per un cantante e un batterista e un ragazzo ci chiamò e non sembrava un matto. Quindi gli chiesi come si chiamasse. Mi disse Ian Curtis, ci conosciamo. E io dissi, oh, ma non ricordavo chi fosse questo Ian. Manca il batterista, per un po' suonano con Steve Brotherdale, che ha una personalità un po' aggressiva. Così una sera, tornando in macchina dalla sala prove, lo mandano a controllare se la ruota è bucata, lo lasciano a terra e scappano. E mi ricorda una cosa, che anche i Decibel lasciarono un batterista in questo modo, senza sapere l'uno dell'altro. Abbiamo lasciato un batterista in un autogrill e ce ne siamo andati perché non suonava come ci piaceva. Dunque a un certo punto spunta un altro che da quel momento rimane il batterista del gruppo, si chiama Stephen Morris. Così la band è pronta, manca il nome. I primi consigli sono Steve Kittens, ma poi l'idea di chiamarsi Gattini Rigidi non è bella, quindi decidono di ispirarsi a una canzone di David Bowie dell'album Low, uno dei loro miti musicali. David Bowie, decidono di chiamarsi Varsav dal brano Varsavia. Pare funzionare, poi cambiano idea di nuovo, fino a che Bernard Sumner non trova il nome perfetto leggendo un libro pubblicato nel 1955, La casa delle bambole. Qualcuno al lavoro mi diede un paio di libri. Uno si chiamava La casa delle bambole. Sapevo che parlava di nazisti, ma non avevo voglia di leggerlo. Ne scorsi giusto qualche pagina e capii che parlava dei bordelli dove andavano i soldati, i Joy Division. E pensai, beh, che cattivo gusto. Questo sì che è punk. E quando lo dissi alla band, tutti dissero che era un gran nome. That's great name. Raccontando una storia che ci ha consigliato Alessandro da Cesena, che Dio lo benedica, perché ci ha fatto riscoprire una bellissima storia, la storia di Ian Curtis dei Joy Division, storia bella e tragica. Ian Curtis è un personaggio veramente particolare nel panorama musicale dell'Inghilterra di quel periodo, quello tra gli anni 70 e gli anni 80. Da una parte c'è la Thatcher, quindi un liberismo spietato e anche una certa durezza, uno scontro sociale senza precedenti per l'Inghilterra, quindi una nazione dura, violenta, povera, disperata. È proprio lì che nasce il punk, e poco dopo è la stessa Inghilterra nella quale nascono quattro ragazzi che fondano il gruppo dei Joy Division, la band di Ian Curtis. Scelgono questo nome un po' provocatorio perché con macabra ironia ricordano il posto dove i soldati nazisti andavano nelle baracche in cui c'erano delle prostitute che erano delle prigioniere, quindi siamo alla provocazione, anche a un certo male di vivere, perché per la band l'orrore dell'esistenza è lì tutto da raccontare, soprattutto lui, Ian Curtis, perché non nega niente a se stesso di questo orrore, legge molto, ma solo libri difficili. Ancora oggi sua moglie Deborah si stupisce delle sue complesse scelte letterarie. Leggeva Dostoevsky, Nietzsche, Ballard, Sartre, libri sul nazismo. Mi resi conto che in ogni minuto libero del suo tempo Ian leggeva e pensava solo alla sofferenza umana. Però ha dell'entusiasmo Ian Curtis, perché la sua esperienza con i Joy Division lo sta intrigando, e nonostante le ristrettezze economiche chiede alla moglie di prendere un appartamento con una stanza in più e la utilizza come studio insieme a lei, lo adatta alle sue esigenze. Sistemammo la camera d'angolo della nostra nuova casa pensando ai futuri capolavori che Ian avrebbe composto. Dipinse il soffitto di blu, il tappeto era blu, anche le tre sedie erano blu come le tende. E così la band comincia a provare e a riprovare, perché bisogna stare all'interno della grande famiglia del punk, ma con qualcosa che li possa contraddistinguere, e ce la fanno. Un problema che viene risolto anche da Peter Hook, che è il bassista, che riesce a trovare con loro una cifra piuttosto particolare. Quando suonavo normalmente non si sentiva niente. L'amplificatore funzionava solo se suonavo le note alte. Allora Ian disse: perché non suoni gli acuti? Funzionano. Lavoriamo su questo. Suona bene, è diverso. Così, grazie a un problema, trovammo il nostro sound. Eh sì, Peter Rook ha un suono completamente diverso, perché suona il basso un po' in fondo alla tastiera. Se sentite i concerti dei New Order, che sono la naturale prosecuzione dei Joy Division, potrete capire. Addirittura a volte ha un capotasto al basso, che è una cosa stranissima della quale si può ridere, ma che comunque è una diversità. E spesso il basso sostituisce la chitarra. Poi c'è la batteria di Steve Morris, che è molto dura, presente, e tutto sottolinea il canto di Ian, che ha una voce bassa, baritonale, monocorde, che ipnotizza il pubblico. Di certo affascina la sua voce Tony Wilson e Rob Gretton. Il primo è un giornalista che conduce una trasmissione televisiva che sui gruppi che stanno nascendo a Manchester. Il secondo è un DJ talmente impressionato dalla performance dei Joy Division che vuole diventare il loro manager. Wilson in quegli anni fonda un'etichetta, la Factory Record, insieme a Martin Nannett, e da allora pubblica due dischi dei Joy Division. Ma intanto il loro primo vinile, che è un disco demo intitolato An Ideal Living, viene interamente registrato solo grazie a Ian. Ian persuase il funzionario della banca a farci un prestito per i mobili del salotto, e così fummo in grado di pagare la registrazione di An Ideal Living, il loro disco d'esordio. Beh, la prima demo non è un granché, lo ammette anche Bernard Sumner. Andammo dal DJ e lo pregammo di mettere il disco. Lui non ne voleva sapere, ci disse, col cavolo. E noi a pregarlo, dai su, veniamo qui da anni. Così lui mette il disco. La gente inizia ad ascoltarlo e la registrazione era così terribile, come ovattata, così moscia, che la pista da ballo si svuotò. Tutti si allontanarono e il DJ levò il disco a metà. E noi, merda, che facciamo? Eppure con l'arrivo di Gretton come manager la band comincia a acquisire un po' di solidità, fanno qualche concerto, si fanno conoscere. Sta finendo il 1978, i Joy Division hanno già all'attivo qualche concerto, un disco inciso assieme a altri gruppi della neonata Factory Records. Il disco viene recensito favorevolmente da Paul Morley del famoso magazine musicale New Musical Express, che definisce la band di Ian Curtis l'anello mancante tra Elvis Presley e Siouxsie and the Banshees. Beh, l'anello mancante forse sono i testi di Ian, influenzati dalle sue letture, alimentati dalle sue angosce. Le parole di Ian Curtis sono scritte a caratteri cubitali nella storia della musica, come quelle che rimangono ancora sulle pagine strappate dei suoi quaderni. Sono racconti personalissimi, di cose che lo hanno colpito in profondità, di una persona fragile, sensibile, forse un po' psicolabile, come succede per She Lose Control, una delle loro canzoni più belle, contenuta nel primo vero loro album Unknown Pleasure, che esce nel giugno del 79 con una copertina definita iconica, con l'immagine delle onde sonore inviate da una pulsar. She Lost Control parlava di una ragazza che aveva incontrato nel centro per disabili in cui aveva lavorato. Si erano conosciuti e credo che lei fosse una persona carina, gentile, che voleva fare delle cose e che invece morì durante un attacco di epilessia. Lui rimase molto scioccato da questa cosa. Credo sia successo prima che lui si ammalasse di epilessia. E così She Lost Control parla di questa ragazza. il primo attacco di epilessia di Ian Curtis, Berna Sumner se lo ricorda bene. È il 27 dicembre del 78, stanno tornando da un concerto, sono in macchina, in auto lui viene preso da un tremore incontenibile, prende a pugni il finestrino, Steve Morris sta guidando e viene preso a pugni anche lui, i compagni spaventati accostano l'auto, cercano di calmarlo. Bene, qualche giorno dopo gli viene diagnosticata una forma di epilessia fotosensibile, cioè che si aggrava con l'esposizione alla luce intensa, come quella di un riflettore, per intenderci. Non è esattamente l'ideale per uno che vuole fare il cantante, e l'epilessia non è l'unica novità nella vita di Ian Curtis. All'inizio del 1980, durante un concerto, conosce una giovane giornalista belga, Annick Honoré. Non credo fosse il loro primo concerto a Londra. Forse era il secondo, il terzo, e c'era un sacco di gente, una fila lunghissima. Ricordo che arrivai prima per essere sicura di trovare il biglietto. La sala era zeppa. A quel tempo scrivevo articoli per una rivista e per me era facile andare al mixer a vedere chi c'era. Qui incontrai Rob e gli chiesi se potevo intervistarli per un articolo per la mia rivista belga. Mi sembrò molto divertito. Non credo sapesse neanche dove fosse il Belgio. Ed è stato così che li ho conosciuti. Durante quella prima intervista scatta qualcosa tra Annick e Ian. È come se due persone timide e complesse si ritrovassero esposte l'una all'altra per finalmente comprendersi fino in fondo. Fu la mia prima storia d'amore. Fino ad allora avevo vissuto solo per la musica. Per me era l'unico vero amore. E poi mi capita di incontrare un essere raro, squisito, gentile, tutto quello che potevo desiderare. È sciocco da dire, ma Ian aveva degli occhi bellissimi, uno sguardo dolce. Sentivo che era una persona che stava soffrendo, fragile, eppure da subito fu gentile con me. La storia inizia proprio mentre quella di Ian Curtis con la sua prima moglie si sta concludendo, quindi ai dolori fisici e psicologici di Ian si aggiunge il senso di colpa per la fine del suo matrimonio e anche per aver abbandonato la figlia nata lì, appena nata. Non c'è mai stato sesso tra i due, ma Ian sa che il sentimento per Annick è vero. Era un rapporto totalmente puro e platonico, quasi infantile, casto. Non abbiamo mai fatto sesso. Ian prendeva delle medicine che gli rendevano impossibile avere un rapporto fisico. E lui prende medicine che lo fanno stare sempre peggio, l'umore è sempre più basso, più depresso, il fisico è debilitato, non sopporta lo stress dei concerti, ha un attacco di epilessia anche durante una performance sul palco, il pubblico pensa che sia un momento in cui lui si sta agitando, in realtà lui sta male, e i Joy Division devono spesso annullare delle date per colpa dell'epilessia di Ian, e questo lo fa soffrire, lo fa sentire ancora più in colpa. Peter Saville, che è uno dei soci della Factory Records, ricorda le sensazioni che Ian provava durante i suoi attacchi. Una volta che iniziava a scuotersi per un attacco, non poteva più controllarsi. Era come un pupazzo e in quei movimenti da pupazzo percepiva tutta la vulnerabilità dei suoi gesti. Era un po' come guardare un artista che durante una performance si ferisce, si taglia deliberatamente. Ian non sanguinava, ma sacrificava qualcosa di se stesso per la gente. E continua a scrivere, a cantare per i Joy Division, ma si chiude sempre più in se stesso. Annick, che lo osserva con discrezione, lo trova sempre più isolato e remoto. He was always recording on his own, you know. Registrava sempre per conto suo. Il gruppo registrava la musica in un altro momento. L'immagine di Ian che mi viene in mente è lui molto stanco e silenzioso, e ogni volta che cantava si metteva di spalle, si metteva le mani sulla testa o sugli occhi, si girava rispetto agli altri ragazzi e si chiudeva in se stesso. Be in himself. Il gruppo torna in sala di registrazione per registrare Closer, il nuovo album. Però la fatica e gli sforzi per ottenere il migliore risultato e le pressioni hanno la meglio su Ian Curtis, che tenta il suicidio una prima volta, è il 7 aprile del 1980. Si salva, ma Annick è sempre più preoccupata. Tutti i testi del CD sono depressivi e tristi, ma sorprendentemente nessuno ci faceva caso. E qui siamo a una svolta, perché i ragazzi dovrebbero capire che bisognerebbe rallentare un po' il ritmo, perché Ian non ce la fa più. Però hanno tutti poco più di 20 anni, il successo alle porte, loro hanno l'energia addosso, non capiscono la malattia di Ian, quindi pensano che con il successo tutta la sofferenza se ne andrà. Intanto Rob Gretton è riuscito a organizzare una tournée negli Stati Uniti. Che cosa si può volere di più? Anche Ian sembra essere più calmo, predisposto a partire. Anche Annick, che lo vede per qualche minuto due giorni prima della partenza, crede che tutto vada bene. Torna a Macclesfield per salutare la moglie Deborah e la figlia. Anche lei non sembra preoccupata dal suo modo di comportarsi. Lui arriva a casa, si mette a guardare un film di Herzog, La ballata di Strozek. Andava su e giù per la stanza, era molto agitato. Ma sapevo per esperienza che non stava per avere una crisi e quindi decisi che potevo uscire. Deve essere rimasto sveglio tutta la notte a sentire dei dischi, perché ce n'era uno che stava ancora girando quando arrivai. Deve avermi scritto la lettera verso le 3 del mattino, perché scrisse che sentiva gli uccelli cantare quando terminò. Deve essersi ucciso nelle prime ore del mattino. Il 18 maggio del 1980 Ian Curtis si impicca nella cucina del suo appartamento a Macclesfield. Lascia un biglietto con scritto: "This is the death of the show and the show of the death". Questa è la morte dello spettacolo e lo spettacolo della morte. Quando Deborah rientra, lui è morto da qualche ora. Sul piatto gira The Idiot, il disco di Iggy Pop. Lui ha solo 23 anni. Secondo Tony Wilson, la vera ragione del suo suicidio è questa. It wasn't the inability to deal with the pressures of... Non era l'incapacità di gestire il successo. Non era l'incapacità di gestire tutte le medicine che prendeva. Non si trattava di questo. È stata una morte basata su un trauma reale di una persona che soffre terribilmente per le decisioni che la vita gli richiedeva, per le persone e tutto il resto. È stato un suicidio molto privato, molto umano. Un mese dopo esce il singolo intitolato Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà a pezzi, uno dei brani più belli della storia della musica rock di tutti i tempi, al punto che Deborah fa inscrivere il titolo sulla lapide nella tomba di Ian Curtis. Sarà anche vero che forse l'amore ci farà a pezzi, come ha cantato Ian Curtis, però se questo implica scrivere canzoni come Love Will Tear Us Apart, ne vale la pena. Ci sono storie anche sconosciute di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che magari è stato il battito di una farfalla, perché morire a 23 anni è veramente come vivere la vita di una farfalla, una meravigliosa farfalla come Ian Curtis. Ognuno di noi nella sua vita può cadere e può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto, anche se per un attimo. Se volete mandarci dei vostri commenti o segnalarci delle storie, come ha fatto il nostro amico Alessandro, fatelo, noi vi racconteremo quello che voi volete. Scriveteci al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure sul profilo Facebook del Falco e il Gabbiano, oppure venite a cercare me, insomma, se volete ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.